Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Sound check numero 368, quello di oggi qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegé Telesforo, buonasera a Francesco Tromba. Ciao a tutti. Allora Francesco, oggi vorrei iniziare la puntata facendo gli auguri a mio padre. Quindi caro papà, se sei in ascolto come sempre fai da fedelissimo ascoltatore del nostro sound check, io ti faccio gli auguri di buon compleanno. E avrei voluto organizzare per te una puntata carica di swing, di jazz, però purtroppo c'è molta musica nuova, papà, che bolle in pentola, e quindi rimanderemo i festeggiamenti con la tua musica preferita al prossimo incontro. Bene, ho fatto il mio dovere di figlio, giusto? Sì, io mi associo agli auguri e gli mando anche un abbraccio, perché anche grazie a lui ho scoperto tantissima musica che non conoscevo. Bene, allora, dicevamo che abbiamo tanta musica nuova da presentarvi e tra l'altro vorrei anche anticipare l'argomento che tratteremo oggi. Sì. Non so in che modo, però vorrei parlare di questo perché stiamo organizzando una puntata per Variazioni su tema, che è il programma che ormai guidiamo da settembre su Rai 5, in onda tutti i mercoledì a partire dalle 21:15, programma che racconta la vita, le avventure tipiche dei musicisti, ma stiamo organizzando una puntata per raccontare l'attività di quelli che potremmo considerare i musicisti della nuova generazione, ovvero i DJ. È ovvero i DJ. E qui si potrebbe aprire già subito un dibattito, perché molti musicisti considerano i disc jockey assolutamente non dei musicisti, ma solo persone che mettono i dischi. Sì, in realtà è da tanto tempo che c'è questa diatriba, però i DJ moderni in realtà sono anche dei musicisti spesso, comunque vengono da una scuola di musica importante, tantissimi DJ fanno questo. È vero. Allora io, Francesco, oggi vorrei raccontare un attimo la storia della figura professionale del disc jockey per arrivare poi a disquisire se effettivamente il disc jockey di oggi è un musicista o no, perché se per musicista intendiamo una persona che attraverso i suoi strumenti fa musica, allora a questo punto, se consideriamo i piatti e i vari armamentari che utilizza un disc jockey, anche il disc jockey può essere considerato un musicista. Sì, beh, con l'avvento della musica elettronica ormai possiamo dire che gli strumenti utilizzati dai DJ comunque sono quasi degli strumenti musicali. Sì, è vero, certamente tu non ti puoi considerare un disc jockey se ti limiti a prendere il tuo vinile o il tuo CD e a posizionarlo nel tuo piatto e a farlo girare. Quello non è un musicista. In quel disc caso jockey, metti musicista, dischi, metti dischi e basta. fai il selector, no? Esatto. E quindi noi non vogliamo parlare di selector, ma di disc jockey che hanno l'inventiva, che hanno la creatività, che hanno l'abilità, la sensibilità musicale di combinare soluzioni musicali diverse per creare qualcosa di nuovo. Ecco, quello allora può essere considerato un musicista contemporaneo, ma ne parleremo durante la puntata di oggi e vorrei subito andare alla musica, perché oggi me ne scappa tanta, e raccontarvi qualcosa, forse lo farai tu, di questa bella ragazza. Si chiama Ashley Smith, album nuovissimo per lei, forse l'album di debutto per lei. Sì, esatto, è l'album di debutto e si intitola Sun Kissed, ovvero baciata dal sole. Mi sembra giusto, chissà da dove viene, sicuramente californiana. No, viene Beverly da... Hills. Beh, l'album è californiano. Sì, però perché... lei è nativa di Dallas, Texas. Beh, è lì il sole pure picchia. Sì. Quando deve picchiare, picchia pure lì. Ashley Smith è baciata dal sole anche da un bel talento, e l'album apre proprio la produzione con questo brano intitolato Best Friends, che io trovo molto carino, e qui ci porta sicuramente in Brasile per l'andazzo ritmico assolutamente riconoscibile. Sì, mi sono innamorato al primo ascolto. Ashley Smith, protagonista qui al Soundcheck di Radio 24, album di debutto per lei intitolato Sun Kissed, baciata dal sole, ma anche da un bel talento, e infatti è stata anche premiata. Sì, ha vinto nel 2014 il Sarah Vaughan International Vocal Competition, una competizione che ha tra i giurati come fisso quasi sempre Christian McBride, poi ci sono anche delle vocalist che si alternano come Didi Bridgewater, Diane Reeves tra i giurati, e anche una delle vincitrici delle passate edizioni è stata Cyril Aimé, che abbiamo già ascoltato qui al Soundcheck. Infatti siamo attentissimi al talento dei giovani protagonisti della scena musicale internazionale, fra questi anche Ashley Smith. Direi proprio di ascoltare il brano che dà il titolo a questo album, molto carino, molto divertente, piacevolissimo da ascoltare. Sun Kissed, Ashley Smith al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, questo potrebbe essere il nostro bello, il fatto di muoverci sul globo terracqueo seguendo le cose più belle che la musica di oggi ci può proporre. E qui il sound originalissimo di un eccellente pianista cubano, anche arrangiatore, producer discografico, che è venuto alla ribalta quando seguiva proprio la formazione composta dai veterani della musica cubana, ovvero i Buena Vista Social Club. Si chiama Roberto Fonseca, il brano Tumbao della Unidad, dal nuovissimo album qui al Soundcheck. Sì, l'album che si chiama A Book, cioè Cuba al contrario, scritto al contrario, quindi ovviamente lui recupera ulteriormente la tradizione dell'isola caraibica. Tra l'altro, cioè, la sua famiglia ha la musica nel sangue, potremmo dire un'altra volta in questo caso, perché suo padre è un musicista, un batterista, sua madre è una cantante professionista, e anche i suoi fratellastri, cioè venuti dal matrimonio precedente della madre, sono dei musicisti, quindi potevano mettere tranquillamente su una band da soli. Ecco, musicista contemporaneo. Noi all'inizio della puntata avevamo parlato dei disc jockey, no? Parleremo fra pochissimo proprio del lavoro del disc jockey di oggi, cioè quando un disc jockey diventa creativo, quando invece è soltanto un selector che deve arredare gli ambienti dove si trova a lavorare. Ti piace questa cosa? Sì, in realtà vabbè, un arredatore sonoro. Assolutamente sì, un curatore. Un curatore, sì. Tu hai mai fatto il DJ? Così, no, anche non... ma neanche a casa, per divertimento. Sì, vabbè, quello sì, le selezioni alle feste, quelle le ho fatte abbastanza spesso, però non mi ritengo un DJ, devo dire. Anch'io mi sono limitato a selezionare i brani, poi mi facevo coadiuvare da uno che invece sui piatti, insomma, da uno che sa missare, per esempio il nostro amico Alex Paletta. Lo devo dire, qualche volta mi è capitato di fare dei DJ set, tra l'altro anche Nicola Conte mi ha anche rimproverato, mi ha detto: ma perché non impari a fare? Ho detto: ma quello è un altro lavoro. Ho detto: ma pure io non lo faccio bene, basta che scegli la musica bella. Devo dire che mi sarei dovuto impegnare di più, anche perché avrei capito che oggi alcuni disc jockey sono molto più pagati dei musicisti, questo sicuramente. Beh sì, comunque avresti avuto un'altra freccia al tuo arco, nel senso che potresti proporre anche un altro tipo di serata con un altro tipo di target. Ma è un altro tipo di attività, è un po' come fare televisione, radio, insomma ti devi specializzare, mio caro. Io sì, credo di fare già troppe cose. Devi anche essere abituato a certi ritmi, perché comunque non suoni alle 5 del pomeriggio, alle 8 di sera, vai dalle 2, l'una di notte in poi. È vero, devi essere pronto fisicamente ad affrontare le notti, le nottate. Assolutamente sì. Penso io che invece alla fine di un concerto, e di solito terminano intorno alle 11:30, sono distrutto e devo andare a dormire. Però in quel caso non canti, quindi è più facile. Non fa niente. A parte, puoi dormire tutto il giorno, perché questa è la vita del disc jockey. Dorme tutto il giorno per poi esibirsi e scatenarsi la di sera. Notte. Va bene, prima di entrare nell'argomento, allora facciamo una cosa, analizziamo ancora un po' l'album, come si intitola? Cuba al contrario. A Book di Roberto Fonseca, e questo brano ha una visione un po' da disc jockey, Direi di sì, assolutamente. Anche se è suonato dalla A alla Z, però mi sa che qui Roberto Fonseca ha strizzato l'occhio alle sonorità contemporanee dei disc jockey che utilizzano le ritmiche tipicamente latine e cubane. Allora, ascolterei Afro Mambo e poi A Sere Monina, qui al Soundcheck di Radio 24, Roberto Fonseca. Soundcheck. il suono della musica. Il talento del formidabile Luis Scato, famoso come batterista, ha già suonato con tutti i protagonisti della scena jazz, funk, R&B, da John Scofield agli Snarky Puppy, ma adesso sta per essere pubblicato il suo album come solista e ormai da qualche settimana vi presentiamo il singolo intitolato In My Reach. Fortissimo, suona di tutto, eccellente polistrumentista, e quindi teniamo d'occhio anche il talento di Luis Scato. Al soundcheck di oggi vorremmo parlare finalmente, Francesco, dei disc jockey. Intanto, quando è nata la professione del disc jockey? Allora, la professione del disc jockey nasce, diciamo, l'archetipo dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'inizio appunto dell'amplificazione a livello proprio professionale. Da un punto di vista geografico, dove? Negli Stati Uniti, perché appunto c'erano sempre di più queste feste in grandi spazi dove magari appunto con l'amplificazione non riuscivi a far sentire bene una band, quindi utilizzavi magari degli espedienti con questi dischi e con delle grandi casse, dei grandi amplificatori, in modo da appunto riempire completamente l'ambiente. Ecco, quindi l'archetipo, la figura professionale del disc jockey è nata nelle radio americane, e poi dalle radio alcuni disc jockey hanno iniziato a proporre il loro vinile, quindi anche lì c'è il supporto importante, perché col 78 giri sarebbe stato molto complicato, no? Sì, assolutamente. Quindi quando c'è stata l'evoluzione del supporto, si è arrivati al vinile a 33 giri, dalle radio ci si è trasferiti direttamente nei club, intanto anche per motivi economici, no? Perché per ballare si utilizzavano le big band. Eh sì, inizialmente si usavano le big band, costavano di più. Immagina che fastidio, anche perché per suonare una big band aveva bisogno di spazio, tant'è vero che per quello poi il jazz si è sviluppato, perché per proporre un certo tipo di musica bastava un quartetto, un quintetto. E quindi il disc jockey ha sostituito il ruolo della big band per dare la possibilità a tutti di ballare, e quindi via via c'è stata l'evoluzione. Sì, il DJ lo puoi mettere anche in un angolino con la sua console, non ha più bisogno del palco, ha bisogno della sua console. Quindi i primi disc jockey lavoravano sul vinile, oggi invece c'è stata l'evoluzione dei supporti, per cui non si devono neanche più portare la valigetta carica di dischi che pesava una tonnellata. Ma sì, era una cosa molto affascinante e molto romantica per quelli come noi che l'hanno vissuta. Ancora ci sono però quelli che si portano i vinili. Certo. Sono pochi. E quelli sono i veterani e i nostalgici però. Sì. È vero? Oggi basta una pennetta USB. Però quando li vedi al lavoro con i piatti, fare tutte quelle cose, lo scratch sul vinile. Sì, è un'altra cosa sicuramente. Adesso lo puoi emulare anche con gli MP3. Sì, lo puoi fare, però non è lo stesso suono. Non ha lo stesso suono e non ha lo stesso fascino, e soprattutto per fare quel lavoro sul vinile ci vuole una grandissima tecnica. Io ci ho anche provato da ragazzo, però non era la mia specialità. Non era nelle tue corde. Non era nelle mie corde. Avrei potuto anche fare il disc jockey ogni tanto nelle serate, l'ho fatto però coadiuvato da qualcuno che missava per me. Però sarebbe stata un'altra freccia al tuo arco, avresti guadagnato sicuramente di più. Ma probabilmente sì, ma come vedi i disc giochi contemporanei, che diventano anche delle immagini forti, no? Sono delle icone, adesso fanno le pubblicità. Spesso in realtà anche nella musica elettronica i DJ non hanno neanche un volto, suonano con delle maschere in faccia, morti. È vero. Questa cosa è una grande idea di marketing, innanzitutto. Certo, la maschera se la devono togliere quando devono superare i posti di controllo negli aeroporti per prendere il loro posto in prima classe. Eh no? Sì, perché viaggiano tutti in prima classe. Stiamo parlando proprio di un'elite. Sì, no? Assolutamente, perché guarda, aspetta, ti leggo la classifica. No, aspetta, tu mi vuoi leggere la classifica dei disc jockey più pagati del mondo. Sì. E lo facciamo dopo l'informazione di Radio 24 e dopo aver ascoltato un altro talento inglese, giovanissimo, si chiama Aaron Taylor. Ascoltiamo due brani. E io lo trovo formidabile questo ragazzo. Sì, è veramente bravissimo. Tra l'altro il suo primo EP, un pezzo, è stato scelto come colonna sonora di una pubblicità dell'Apple Watch, in cui c'è appunto John Batiste, che è anche lui un pianista di jazz, viene dal jazz, che legge sul suo orologio il messaggio che gli invia Quincy Jones. Ecco qua, Aaron Taylor per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Buon divertimento. 1 2 3 Soundcheck. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck qui dal Groovemaster Studio di Radio 24. Dopo l'informazione, puntualissimi, siamo di nuovo operativi con Francesco Tromba, che sta rintracciando le dichiarazioni dei redditi dei disc jockey più pagati del mondo. Oggi parliamo di questa figura professionale che si è evoluta nel tempo. Vengono considerati alcuni di loro dei veri e propri musicisti, perché hanno l'abilità anche dal vivo di poter creare nuove situazioni sonore pur utilizzando album e produzioni realizzate da musicisti e da artisti, ma hanno anche questo tipo di competenza. Molti di questi disc jockey col tempo, oltre a guadagnare facendo serate in giro per il mondo, sono diventati anche degli abili produttori discografici e quindi molto richiesti da star della musica pop, dell'R&B e anche da musicisti. Io per esempio ricordo anche delle collaborazioni importanti di un maestro come Herbie Hancock con alcuni fra i disc jockey più pagati, perlomeno quei disc jockey che con i piatti riescono a creare sonorità e a fare quello che una volta era considerato lo scratch. Sì, comunque è un appunto un tipo di sound che i musicisti stanno iniziando a utilizzare, in realtà hanno iniziato a usare da tanto tempo. Ormai da tanto soprattutto tempo. Soprattutto appunto i primi forse ad utilizzarlo realmente in maniera massiccia sono stati tutta la cultura dell'hip hop. Dell'hip hop e i rapper, certo. Sì, sono partiti tutti. Però poi da si è modificato il tutto. Adesso i disc jockey più pagati sono quelli che fanno musica più abbordabile, più commerciale, no? Eh sì, perché devi riempire comunque le piste, sì, quindi con battuta metronomica altissima, BPM altissimo, quindi ritmiche velocissime, riff portanti, il tutto deve essere molto semplice, ipnotico e, lasciamelo dire, a volte banale. Quindi con questo concept si fanno tanti soldi. Andiamo a vedere la classifica dei disc jockey più pagati del mondo, partendo, non li citiamo tutti, che vogliamo fare, i primi cinque? Sì, allora facciamo così, partiamo dal pari merito, cioè terzi a pari merito sono tre disc jockey, che sono Tiesto, Skrillex e Steve Aoki. Loro guadagnano 24 milioni di dollari l'anno. Ma non ci posso credere. Tantissimo. Fatturati, perché questa è una dichiarazione dei redditi. Sì, no? È appunto la classifica di Forbes. Quindi immagino che in questi 24 milioni di dollari ci siano anche tutte le pubblicità che fanno, i prodotti che sponsorizzano, le presenze varie nelle ospitate, eccetera, eccetera. Non solo i dischi venduti o quanto prendono per una serata. Beh, se consideri che molti di loro, a livello in cui sono arrivati questi ragazzi, hanno anche aerei privati, jet privati che li portano. Eh beh sì, con questi guadagni ti credo. Vabbè, è facile noleggiarlo, un aereo privato. Lo faceva Corona. Eh sì. Vedi che fine ha fatto però. Infatti. Vabbè, non erano auguro queste disc jockey, altri tempi. Invece al secondo posto c'è David Guetta con 37 milioni di dollari. Ah, non è il primo? Pensavo no, non fosse è il primo. Non è David Guetta. C'è anche tantissima distanza tra lui e il primo. Perché David Guetta quanto incassa David all'anno? Guetta guadagna 37 milioni di dollari, nonostante le pubblicità è comunque secondo. Vabbè, questi sono quelli dichiarati, dai. Sì, sì. Poi magari c'è qualcosa. C'è la valigetta, quella. Sì. Col paradisi contante. Fiscali. No, col contante, no, vai nel locale. Sì, può Vabbè. Essere, dai. Al primo posto con ben 66 milioni di dollari c'è Calvin Harris. Calvin Harris? Sì, che è un disc jockey britannico. Ma non ci conosci. Sono senza parole. Quanto ha guadagnato questo? 66 milioni di dollari in un anno solamente. Ma noi siamo dei disgraziati, non abbiamo capito nulla. Non abbiamo capito nulla. Magari questo non ha neanche mai studiato musica. Ma non credo in realtà. Non credo. Non c'è bisogno. La sua base musicale ce l'abbia. Sono veramente scioccato. Allora direi di andare a un altro protagonista della scena attuale, e qui si sente comunque il sound tipico da disc jockey, la ritmica è elettronica e c'è molto del mondo contemporaneo che si trova in vari locali in giro per il mondo, anche se qui parliamo di musica di qualità sempre. Sì, in realtà c'è anche molto della Motown, perché comunque lui si ispira, ha ascoltato, è cresciuto ascoltando tutti gli artisti della Motown. Fammi dire come si chiama. Viene da Detroit, Tall Black Guy, ovvero un bel ragazzone alto e nero. Sì, che canta in questo caso insieme a Masego. Masego e Rommel Donald partecipano a questa produzione di Tall Black Guy. Il brano, beh, il titolo è un classico proprio per le generazioni degli anni 70. Peace and Love. Soundcheck, il suono della musica. E anche Ahmed Sirur è un eccellente producer della nuova generazione, residente a Brooklyn. Un paio di anni fa abbiamo anche intervistato questo ragazzo in occasione della pubblicazione dei suoi album e dei suoi lavori. La maggior parte dei lavori di Ahmed Sirur vengono proposti attraverso internet su piattaforme come SoundCloud e Bandcamp, e questa era la sua versione di Happy. Il lavoro fatto da Ahmed Sirur in questo caso è stato quello di rintracciare tutta la parte vocale, ma anche alcune voci sono state rifatte, quindi ha rifatto proprio l'arrangiamento, ha rifatto la composizione celebre di Pharrell Williams così come la sentiva lui. Sì, potremmo dire che lui appunto mantiene la parte vocale principalmente nei suoi lavori, cioè la parte vocale è quella che rimane quasi sempre abbastanza inalterata. Sì, ma in questo brano anche la parte vocale ha subito delle alterazioni armoniche, quindi non so se l'ha fatta rifare, ricantare da qualcuno o come abbia lavorato. Ha modificato magari un po' di elementi. Può però essere. Diciamo di solito i suoi lavori sono appunto, mantengono anche comunque un rispetto per la composizione principale. Sì, per la melodia. Sì, rispetto ad altri DJ che comunque li stravolgono spesso. Completamente. Sì, completamente. Non avendo rispetto per il compositore. No, infatti. Ed è per questo che fanno tanti soldi. Sì. Senti, prima ci hai letto la classifica discografica, la classifica dei disc giochi più pagati, ma italiani invece non ce ne sono? No, non ce ne sono tra i più pagati. Però ce ne sono di disc giochi italiani che vanno fortissimo. Sì, come no? Ad esempio Clap Clap, che ha avuto un grandissimo riscontro internazionale anche con Giles Peterson, che è stato uno dei primi a promuoverlo fuori dai confini italiani. C'è anche Populus, comunque sono tanti i DJ italiani che stanno andando bene fuori dall'Italia anche. Bene, comunque se una volta l'aspetto romantico del disc jockey era proprio quello di vedere una persona grande appassionato di musica, intanto un po' fricchettona, no? Sì. Me lo immagino sempre con i pantaloni scampanati, jeans scampanati e una bella valigetta carica di vinili. Adesso questa figura in giro per il mondo non si vede quasi più, sono pochissimi quelli che sono rimasti legati al supporto originale in vinile. La maggior parte di loro vanno in giro proprio con i loro software, il loro computer, MP3 in varie drive pen e così via, e creano musica originale lavorando dal vivo di fronte a migliaia di persone. Sì, poi c'è anche appunto la differenza tra appunto suonare live e fare il DJ set, che questa qui è una differenza importante, nel senso che per suonare live ovviamente il budget è molto più alto, nel senso che i DJ chiedono di più, cioè come se fossero appunto dei musicisti che si esibiscono in quel momento, e lì devi avere anche un po' di pazienza, nel senso che spesso per costruire appunto il pezzo ci vuole un po' di tempo, devi aggiungere i vari elementi, mentre nel DJ set è appunto l'evoluzione, diciamo, del semplice mettere i dischi con delle aggiunte musicali fatte appunto sul momento dal DJ. Abbiamo notato però che si sta tornando al passato, così come nella musica, no? C'è stato un momento, un'esplosione di musica elettronica preconfezionata in studio di registrazione, non esistevano neanche più le batterie, figurati i batteristi, venivano utilizzati loop, campionature, batterie elettroniche. Invece si sta tornando anche che ne so, nella dance, ma nell'R&B all'utilizzo proprio degli strumenti reali, e la differenza da un punto di vista sonoro si sente anche nella professione del disc jockey. Si sta tornando al vinile, quindi sono in molti che stanno tornando a volte si fanno anche stampare musica che non è stata prodotta in vinile, se la fanno stampare proprio sul vinile calibrato al punto giusto, proprio per poter fare i mix dal vivo. Sì, e ci sono anche tantissimi musicisti di jazz che si fanno accompagnare da DJ per appunto rendere ancora più moderna la loro visione. E dal mio punto di vista questa è una delle cose che mi piace di più, la contaminazione tra gli strumenti analogici e comunque l'elettronica dei DJ. Secondo me sono i progetti più interessanti che possiamo trovare in questo momento. E questa è l'elettronica che arriva da Brooklyn per Ahmed Sirur, nuova pubblicazione per lui, il brano si intitola Vitamin H. Soundcheck, il suono della musica. Che sound ha questo ragazzo, la voce di Anderson .Paak, ce lo ritroviamo in tutte le produzioni della nuova generazione, soprattutto quelle che arrivano dalla California, perché lì risiede Anderson .Paak. È NX Warriors, è il nome di questa band, giusto? Sì, che è un duo. Che è un duo. Oltre a esserci Anderson .Paak, c'è Knowledge, che appunto è un musicista, ma soprattutto un DJ, un manipolatore di suoni. Get Bigger, Do You Love con Anderson .Paak qui al Soundcheck di Radio 24. Questo ragazzo sta andando benissimo, noi lo abbiamo lanciato proprio in Italia qui al Soundcheck di Radio 24, ormai da 2-3 anni parliamo di lui e come vedi se ne sono accorti in tutto il mondo, tant'è vero che Anderson .Paak mi sa che ha avuto una bella nomination anche ai Grammy Award. Sì, è molto probabilmente vincerà anche, mi auguro, perché guardando anche le classifiche di tutti gli altri, le altre riviste di musica o comunque gli altri enti musicali, Billboard ad esempio, NPR, tutti ne parlano benissimo ed è tra i primi 3 posti in classifica di tutti gli album appunto nell'R&B, nella categoria R&B. Eh sì, è sempre presente, sempre presente. Sì. Noi... oltre a quello comunque, oltre ad aver fatto Malibu, ha fatto appunto questo disco con Knowledge, gli NX Warriors, ha fatto tantissimi featuring all'interno di altri album che sono andati anche molto bene. Bene, allora stavamo parlando dei disc jockey, come è cambiata la figura professionale, ovvero io ho notato che ormai da anni ci sono anche dei talent show dedicati ai disc jockey della nuova generazione, anche in Italia ce n'è uno nostrano, noto che molti ragazzi appassionati di musica, piuttosto che studiare musica nei conservatori e buttare sangue e sudore dietro agli strumenti, scelgono poi le console. Sì, però devo dire che quelli, i DJ che di solito hanno un successo più lungo nel tempo sono quasi tutti quelli che hanno una base musicale dietro, nel senso hanno degli studi musicali dietro, anche se magari non fatti al conservatorio, non degli studi accademici, però comunque hanno una base da musicisti, un approccio soprattutto da musicisti, perché appunto avere l'idea per, o essere di tendenza per un tot di anni, magari ti può anche capitare, però poi avere una carriera intera in auge non è facile, quindi devi avere un approccio basato. Sì, quindi se la carriera inizia, ma anche in una radio o in un condominio, no? Faccio col tuo network di strada, poi l'obiettivo dopo aver fatto tante serate, messo in banca un bel conto, poi l'obiettivo è quello di produrre musica, sì, di diventare un vero producer con la tua musica. La tua mentalità. Sì, ad esempio rispetto a DJ che sono vecchi, diciamo che hanno oltre i 60 anni, 70 anni, ce ne sono veramente pochissimi che ancora realmente suonano, come ad esempio Giorgio Moroder, che comunque ancora a 70 anni fa le serate in discoteca. Non so come faccia. Va bene, allora ci sono delle nuove produzioni, anche qui c'è molta elettronica, noi ve le proponiamo, io non devo dire, non è che mi fanno impazzire, però a questo punto, visto che ci troviamo, direi di far ascoltare agli appassionati del genere anche Jaden Smith con Fallen e AB Dijon, un altro duo con Apple Pie, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Da non perdere al cinema Sing, se non altro per la colonna sonora, cartone animato di grandissimo successo negli Stati Uniti, e poi con una colonna sonora così, il brano era Fate, le voci incredibili insieme, quella del veterano Stevie Wonder e di uno dei talenti più seguiti in questo momento, che è Ariana Grande, e io confesso che sono diventato un fan di Ariana Grande sentendo la musica che mia figlia suona nella sua stanza. Eh sì, perché sta andando veramente fortissimo tra i ragazzi delle nuove generazioni, è l'idolo, la pop star idolo di riferimento proprio. Ma intanto perché è bravissima, diciamo la verità, no? Sì, è bravissima, diciamo che molti tratti dei suoi pezzi magari appunto visti da un musicista, comunque da chi è appassionato di musica del soundcheck classico, può anche storcere un po' il naso, nel senso che sono molto molto pop. Certo, però noi dobbiamo anche capire che da un punto di vista vocale Ariana Grande può cantare quello che vuole, sì, benissimo, tant'è vero che non credo che Stevie Wonder si sarebbe cimentato in un'operazione del genere con una sconosciuta o con una così. Assolutamente. È vero, tra l'altro sì. Io li avevo già visti cantare insieme, non so in quale occasione, forse proprio Grammy Award o una manifestazione di questo tipo, e Ariana Grande fece una figura fantastica. Sì, soprattutto nei live lei dimostra appunto di essere veramente fortissima dal punto di vista vocale. Bene, ci siamo divertiti anche oggi, abbiamo raccontato qualcosa della figura professionale del disc jockey che si è modificata, così come si è modificato il supporto con il quale loro hanno iniziato la loro attività, quindi dal vinile si è finiti all'MP3 e al digitale, però una figura professionale da tenere d'occhio, importante per la musica contemporanea, perché se musicisti, come dicevamo, come Herbie Hancock o anche talenti della nuova generazione richiedono in studio di registrazione la partecipazione di disc jockey professionali perché hanno proprio quel tipo di mentalità, ma anche uno come Jay Dilla era un disc jockey ma anche un eccellente producer discografico che ha cambiato completamente, ritmicamente, il corso della black music. Sì, e guardando anche la storia di DJ potremmo dire che in tanti casi sono stati anche interpreti della socialità, della società che si andava sviluppando e costruendo intorno a noi. Hai visto che sei bravo, tromba? Ogni tanto qualcosa di serio lo dico. Va bene, noi ci risentiamo domani alle 19:15 qui al Soundcheck di Radio 24, puntata che noi vorremmo dedicare a un altro eccellente talento. Questo veramente, e questo è un musicista, anzi non è un musicista, questo è il super musicista della nuova generazione, ovvero il giovane inglese Jacob Collier, che finalmente ha pubblicato il suo primo album e finalmente è in giro in tournée, perché tutti eravamo curiosi di vedere dal vivo com'era Jacob Collier. Adesso fa concerti, ci auguriamo però presto di vederlo anche accompagnato da una band, perché per ora continua a fare tutto da solo. Ma ne parliamo domani di Jacob Collier e della sua stanza piena di strumenti e di telecamere. Qui al Soundcheck chiudiamo invece con un altro campione contemporaneo che ha avuto ben 7 nomination ai prossimi Grammy Award, che è uno dei nostri preferiti, il formidabile e anche simpaticissimo, lasciamelo dire, Chance the Rapper con Finish Line. Il brano si intitola Drone, e qui ci sono poi tante star da Kirk Franklin, T-Pain e tutti gli altri, compreso una ragazza chiamata No Name che noi stiamo sponsorizzando qui al Soundcheck. Ciao a tutti e a domani alle 19:15.